Possiamo dire che è una replica della manifestazione di Piazza del Popolo del 15 marzo a Bologna, con le stesse caratteristiche, per noi è qualcosa di politicamente terribile. Se prima del 15 marzo ci potessero essere state delle ambiguità su cosa voleva dire una piazza per l'Europa, su quel palco tutte quelle ambiguità sono abbastanza svanite nei vari discorsi, di Scurati, di Vecchioni, ma anche dei vari sindaci che si sono alternati. Abbiamo visto un vero e proprio passaggio di suprematismo e nazionalismo europeista, in cui venivano detti, diciamo, soltanto una mezza storia dell'Europa, parlando appunto di tutte le cose bellissime che ha prodotto l'Europa, pensando che le abbiamo solo noi e considerando appunto che il resto del mondo invece fondamentalmente vive nella barbarie, ma dimenticandoci invece la nostra complicità nelle guerre in giro per il mondo negli ultimi 50 anni. Una replica di questa piazza, proprio a Bologna, per noi è insostenibile. Noi siamo per la solidarietà fra i popoli, per l'internazionalismo, non certo per, esaltare i singoli nazionalismi in un unico nazionalismo europeo. Ecco, voi sottolineate anche l'aspetto economico di chi pagherà questa manifestazione. Esatto, questa manifestazione del 6 aprile, convocata direttamente dall'Equore e la sindaca di Firenze Funaro, rischia ovviamente di essere organizzata nella stessa maniera di quella di Roma, in cui in tanti ci eravamo chiesti chi avrebbe pagato tutta quell'organizzazione, e a un certo punto il sindaco di Roma Gualtieri ha detto tranquillamente: ah sì, abbiamo pagato tutto noi con i soldi delle tasse dei cittadini. Questo ovviamente è un danno, letteralmente, oltre alla beffa. I compagni di Roma hanno già presentato un esposto per danno erariale, perché appunto con i soldi dei cittadini si vanno a pagare fondamentalmente delle manifestazioni che fondamentalmente sono poi, abbiamo visto, tendenzialmente di un partito o di un gruppo di partiti e non certo dello spirito popolare di questo periodo. Nella vostra contromanifestazione sono diverse le sigle che hanno già sottoscritto l'appello, giusto? Sì, oltre, diciamo, alle altre organizzazioni politiche, ci sono i sindacati di base, l'Unione Sindacale di base, il Sindacato Generale di base, ci sono diverse organizzazioni giovanili, ci sono ovviamente i comitati ambientalisti, abbiamo l'adesione anche di diverse liste civiche della città metropolitana. Questo fa vedere appunto che sono diversi tipi di realtà che stanno facendo un ragionamento in cui appunto viene messa in discussione questa inebriatura di suprematismo europeo. Io non riesco a chiamarlo in un altro modo, che sotto sotto, ma nemmeno troppo, va poi a dare una giustificazione fondamentalmente o per il riarmo o per la difesa comune, come adesso ama chiamarla la segretaria del PD, Schlein. Schlein ha detto no al piano da 800 miliardi per il riarmo dei singoli stati, però sì a una difesa comune. Voi siete contrari anche a questo? La difesa comune che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente un esercito europeo. Che cosa vuol dire un esercito europeo oggi? Vuol dire la capacità di una maggiore proiezione militare dell'Europa in giro per il mondo. Noi non possiamo fare finta che l'Unione Europea sia stato un paradiso di pace. Certo, è stato un paradiso di pace forse al suo interno, se facciamo finta che non ci siano stati degli attacchi economici pesantissimi che hanno distrutto ad esempio la Grecia poco più di 10 anni fa, ma che hanno comunque continuato una proiezione militare in giro per il mondo. Ricordiamo la Francia nel Sahel, ma ricordiamo la complicità dei paesi europei in Afghanistan, in Iraq, così come in altre parti del mondo. Un esercito europeo vorrebbe dire continuare su quella politica a un livello maggiore, ovvero un salto quantitativo e qualitativo nella capacità imperialista dell'Europa. Questo ovviamente noi ci opponiamo in tutti i modi. E domenica ci vediamo in piazza alle ore 15 in Piazza San Francesco.